L'ansia può essere definita una condizione emotiva caratterizzata da angoscia, terrore morboso, sensazione di insufficienza, apprensione, preoccupazione per quello che potrebbe succedere. Perciò, l'ansioso è colui che vive in un continuo stato di allarme. Questo atteggiamento è tanto comune che il Signore Gesù ha parlato dell'ansia ai suoi discepoli, come se questa fosse una battaglia giornaliera. In effetti l'ansia è un conflitto nascosto che condiziona la nostra vita più di quanto ci rendiamo conto. Proprio perché l'ansia rende inaccettabile la vita, Gesù, come un buon medico, ne ha dato la cura. Nessuno può servire a due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure sarà fedele all'uno e disprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e a Mammona. Perciò io vi dico, non siate con ansietà solleciti per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. La vita non vale più del cibo e il corpo più del vestito. Osservate gli uccelli del cielo. Essi non seminano, non mietono e non raccolgono in granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi, con la sua sollecitudine, può aggiungere alla sua statura un solo cubito? Perché siete in ansietà intorno al vestire? Considerate come crescono i gigli della campagna. Essi non faticano e non filano. Eppure io vi dico che Salomone stesso, con tutta la sua gloria, non fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio riveste in questa maniera l'erba dei campi, che oggi è e domani è gettata nel forno, quanto più vestirà voi, o uomini di poca fede? Non siate dunque in ansietà, dicendo, che mangeremo, o che berremo, o di che ci vestiremo? Poiché sono i gentili, quelli che cercano tutte queste cose, il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose, ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Non siate dunque in ansietà del domani, perché il domani si prenderà cura per conto suo, basta ciascun giorno il suo affanno. Matteo 6:2-4:34. Queste parole non sono sconosciute. Ciò che è sconosciuto è la realizzazione del messaggio di Gesù, perciò chi vuole essere liberato dagli stati ansiosi dovrà prendere sul serio ciò che Gesù ha ordinato. Quando Gesù disse che non si può servire a due padroni, cioè a Dio o alle ricchezze, non voleva dire altro che le ricchezze hanno la capacità di assoggettare l'uomo nella stessa misura in cui Dio chiede all'uomo di essere a lui sottomesso. Per ricchezze non si intende propriamente il valore della moneta in sé, ma l'intera esistenza umana che è in definitiva il bene o la ricchezza dell'uomo. In effetti, per poter sussistere l'uomo ha bisogno di mangiare, di bere, di vestirsi e di gestire l'andamento delle situazioni. Senza queste premesse non vi è esistenza. Perciò l'ansia nel suo stato embrionale inizia proprio dalla necessità di mangiare, di vestirsi e di programmare la vita. E poi, una volta ottenute queste cose, vi sarà l'ansia per il sovrappiù, per i desideri illeciti chiamati concupiscenze e per le relazioni conflittuali con il prossimo, con se stessi e con Dio. In merito al cibo, come sempre la parola di Dio è molto realistica. Tutta la fatica dell'uomo è per la sua bocca. Ecclesiaste 6:7. Dato che la sussistenza dell'uomo dipende dal cibo, è normale che vi sia una certa sollecita attenzione a procurarselo, ma se questo obiettivo viene stimolato con una certa ansietà, l'accurata attenzione lecita diventa preoccupazione illecita. Chi vende cibo approfitta di questa necessità di mangiare, presentando il cibo in forma sempre più allettante, portandoci così all'ingordigia e a considerare tutto ciò che diletta la vista e stimola l'appetito una necessità della quale non è possibile fare a meno. Se non mangi un tal prodotto sei un corpo estraneo alla società e la pubblicità ti fa sentire un meschino e un arretrato. Un'ansia ingiustificata caratterizza certe mamme superprotettive le quali per nutrire i loro figli li costringono a mangiare quel tanto e quel tipo di cibo da esse imposto. Oppure cibi che sono in continua angoscia per il futuro dei loro figli. Eppure anche chi ha un'alimentazione sbagliata a volte la sua vita diventa più preziosa di quella vissuta da chi non ha mai commesso errori fatali. Sul cibo speculano le case farmaceutiche quando invitano le mamme a nutrire i neonati con prodotti fatti da loro e non con il latte materno. Proprio sul cibo vi sono i più grandi affari, dimostrandosi così ancora una volta come la ricchezza del cibo possa rendere schiava una persona alla stregua di Dio. Con due differenze però. Mentre Dio, come padrone, non impone la sua volontà ma chiede obbedienza come risultato conseguente alla resa della propria volontà, la ricchezza diventa padrona, perché la persona non riesce a farne meno. Inoltre, sottomettendosi volontariamente a Dio, si trova la libertà, la pace e la gioia, mentre, essendo sottomessi alle ricchezze, si trova schiavitù, dolori, angosce e soprattutto ansia, perché mentre Dio dona sicurezza, le ricchezze sono incerte. Per questo Gesù disse di non essere ansiosi per quello che si mangerà, perché mentre il giusto impegno per procurarsi il cibo è lecito e doveroso, l'ansia non aggiunge nulla a ciò che proviene da Dio. Anche sul vestire la ricchezza ha il suo potere. Se si investe inutilmente del denaro sul cibo, non se ne investe di meno nell'abbigliamento. Vestirsi è d'obbligo, ma spendere dell'inutile denaro per capi firmati o per possedere qualcosa di più di quanto sia necessario è un reato del quale si deve rendere conto a Dio e al nostro prossimo più povero di noi. In una società del benessere non è possibile comprendere certe cose, ma quando si pensa che poco dopo il secondo conflitto mondiale un paio di scarpe durava almeno 10 anni, mentre un soprabito dai 15 ai 20 anni non c'è nessun paragone con la società occidentale consumistica del XXI secolo. E l'ansia che spinge l'uomo a eccedere nel vestire, ansia di voler essere alla moda, ansia di piacere, ansia di possedere. Nulla di strano, perché chi non è cosciente di piacere a Dio, chi non cerca di compiere la volontà di Cristo, è normale che cerchi di piacere al prossimo. A qualcuno occorrerà piacere, a Dio come padrone o al padrone della ricchezza. Ma non si può piacere a tutti e due. Così una giovane ragazza vergine, che si veste e si sveste per piacere agli uomini, rimarrà vergine ma non sarà casta, cioè pura o incontaminata. Ma forse la potenza della seduzione più forte, il padrone della ricchezza, si manifesta soprattutto per l'ansietà del futuro. E questo perché noi abbiamo un grande bisogno di sicurezza, un bisogno di essere il possessore delle circostanze. Abbiamo detto che l'ansia è una condizione emotiva caratterizzata da angoscia e dalla preoccupazione per quello che potrebbe succedere. Inoltre abbiamo constatato che l'ansioso è colui che vive in un continuo stato di allarme. Nulla è più identificato con la preoccupazione del domani. La fobia di voler gestire ogni attimo della nostra vita ci rende simili a Dio, e poche sono le cose che possono gratificare quanto il sentirci padroni della situazione. In definitiva, i dittatori con il loro superpotere non facevano altro che voler dominare tutto e tutti, senza rendersene conto, meno anche se alcuni erano consci, meno che avevano la soddisfazione di provare la potenza di Dio. Così, nel suo piccolo, ognuno di noi, nel vivere uno stato ansioso, non fa altro che dimostrare il suo grande e innato desiderio di volere gestire ogni minimo dettaglio della vita, o sentirsi sicuro solo perché è padrone di disporre delle situazioni, di essere, in definitiva, come Dio. Analisi scioccante, ma a dire il vero con nulla di nuovo, perché quando Satana tentò Adamo ed Eva, li invitò a gestire la situazione per essere come Dio. Solo chi vuole gestire le cose similmente a Dio può essere come Dio. Chi ha posto fede in Cristo non è esente dal pericolo di essere ansioso. Come ogni altro essere umano, anche il credente deve mangiare, bere, vestirsi e programmare la sua vita. Ma se non realizza che Dio è sovrano nelle circostanze, diventa peggiore di tutti gli uomini. A volte, con la sua moralità tradizionale, il credente può apparire meno attaccato alle cose della vita, ma la sua ansia lo tradisce quando si indebita e si impegna a tal punto che deve lavorare più del necessario, trascurando la lettura della parola di Dio, la preghiera e la comunione fraterna. Inoltre, per chi ha posto fede in Cristo Gesù, vi è il pericolo di cadere in uno stato ansioso, il quale ha la parvenza di spiritualità, e che pochi o nessuno ha il coraggio di considerare sbagliato, e cioè l'ansietà per il regno di Dio. E poiché il piacevole, diabolico desiderio di voler che le cose vadano sempre come noi le vogliamo, e poiché l'ansia procura stati depressivi, paure e ogni altro disordine fisico ed emotivo, l'Apostolo Paolo, guidato dalla persona dello Spirito di Dio, ha dato questo ordine: «Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica, con ringraziamento. E la pace di Dio, che sopravanza ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù». Filippesi 4.6. L'ordine di Dio è di non essere in ansia per nulla, e in quel nulla vi è anche l'andamento del regno di Dio. Dio è sovrano non solo sulle circostanze della vita secolare, ma anche sulla sua opera, e chi ha posto fede in Cristo non può e non deve essere in ansia come se Dio fosse assente in quel momento. Non pochi sono rimasti colpiti dall'episodio descritto nell'Antico Testamento in merito al sacerdote Uzza, quando stese la mano per sostenere l'arca che stava per cadere e morì sul colpo. 2 Samuele 6.6. Per quanto si possa pensare, una cosa era certa: per ordine dell'Eterno l'arca non doveva essere toccata per nessun motivo, neppure se doveva cadere per terra. Se cadeva, era responsabilità di Dio. Con questo episodio l'Eterno ha voluto insegnare che i suoi comandamenti devono essere ubbiditi, lasciando a Dio la responsabilità delle conseguenze della nostra ubbidienza. Come vincere l'ansia? Dio ci ordina di avere uno spirito di preghiera, di supplica e di ringraziamento, perché quando si è in sintonia con Cristo si lasciano a Lui tutte le nostre gioie, dolori e il nostro futuro. Non conosco un rimedio migliore contro l'ansia se non quello di un continuo rapporto di comunione con Cristo. Non è l'opinione di un religioso formalista o di un bigotto, perché se mentre si prega non si è ansiosi, allora non si può essere ansiosi quando abbiamo una vita di preghiera. E per togliere ogni malinteso, pregare vuol dire lasciare tutto nelle mani di Dio. E se tutto è nelle mani di Dio, come si può essere ansiosi? Vogliamo noi saperne più di Dio? E forse l'ansia è il risultato del nostro orgoglio? La risposta può essere la soluzione alla nostra ansia. Aprile 2006. Ellero.